spiegare una cosa ai vostri radioascoltatori. Cruciani è molto amato dai gay. Sto qua, beccate questa, Cruciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo è mai andato in psicoterapia e che sicuramente il suo psicoterapeuta non vale molto. Cruciani, mi permette una battuta? Di lei non ho molta considerazione. E chi se ne frega? Qualcuno scrive che siamo stati condannati oggi per la vicenda notissima della telefonata a Barca Vendola, tutte cazzate, ma ne parleremo più avanti. E comunque, avanti tutta! Oh, cose viste, notate durante questo fine settimana, caro Parenzo, c'è sì, un signore sì. Che si chiama Muraro, che è un presidente, se ancora esistono, della provincia di Treviso, era con la Lega, poi adesso è con Tosi, dunque dovrebbe essere in teoria leggermente più moderato rispetto ad alcuni toni utilizzati da alcuni esponenti leghisti. Il signor Muraro, durante un dibattito in televisione presso una rete privata locale veneta, si è espresso in questo modo, cioè rivolto ad un deputato, consigliere regionale, non so chi sia. Ruzzante, va bene, Partito Democratico. Non è importante, un amico. Vabbè, quello ce ne fottiamo, Ruzzante. Che è tuo amico. Non andare nei dettagli, la gente non lo conosce, non importa nulla. In Veneto lo conoscono. Ruzzante. Va bene, benissimo. Sicuramente sarà una brava persona. Questo molto signor bravo. Ruzzante si è visto rivolgere queste parole. Le parole sono queste: voi avete come progetto, dice questo signor Muraro. Io sono sicuro che molti ascoltatori saranno anche d'accordo con quello che dice Muraro. Voi avete come progetto quello di imbastardire la razza, di bastardare, dice anche. Bastardare la razza. Quale razza? Quella veneta, quella italiana, eccetera. Siccome il 4% ha meno di 30 anni, dobbiamo bastardare la nostra razza con queste persone. Ho capito, questa è la vostra politica. Volete portare gli uomini di colore qui per bastardare la nostra razza. Allora a me non va bene. Ragazzi, è chiaro, avete come progetto quello di portare gli immigrati in Italia perché volete bastardare la razza. Io devo essere sincero, queste parole non mi era mai capitato di sentirle nel recente passato, mai. Bastardare la razza, vabbè, questo Muraro, addirittura Mentana sostiene che Muraro si è fatto di bamba, cioè si è fatto di cocaina. Più che un problema di bambù è un problema di bamba quello che abbiamo davanti, ma... Adesso magari al telegiornale bisognava spiegarlo meglio, è un problema di bamba, non è che in tutta Italia sanno che la bamba sia la cocaina, no caro Parenzo? Non in tutta Italia lo sanno. Beh no. Gergale, dai. No, no? La bamba? No, a Roma la bamba non lo sanno. Beh, facciamo un sondaggio, si dice così. No, ti assicuro che non si dice così. Va bene, c'è stata Pontida, fra poco avremo Salvini per famosi Pontida, lunedì salviniani. Sì. Che non sono le Pasque veronesi. No, ma che come iniziare? La settimana mangiamo del ferro. Ma no, dai, esageri su, dai. No, ma no, un inizio della settimana, sai, come se tu iniziassi un pasto il lunedì, mangiamo del ferro fa bene, Ma no, ma del ferro, dei chiodi, non so come no, dirti. Ma il ferro, tu dici, il ferro fa bene. Ma no, non il ferro, quello della carne, il ferro. Vabbè, comunque ti voglio fare sentire quello che ha detto uno di questi cantanti, contro Salvini. Poi, per carità, ognuno può dire il cazzo che vuole nella vita. Allora, abbiamo questo tizio che si chiama Enrico Greppi. detto Enriquez, di un complesso che si chiama Banda Bardò. Banda non Bardò. Mai sentito. Gruppi mai sentito. Minori, importanti, gente che canta, insomma, il quale ha queste parole per il signor Salvini. Sentite, Più morti c'è, più gente c'è che arriva, più è contento perché può dimostrare che non è gente che arriva per rifugiarsi, sono degli invasori, sono gente che porta malattie, non è un errore, è una cosa calcolata che mi fa dire che non merita neanche di essere chiamato uomo, insomma non appartiene alla mia razza, signor Salvini. Allora, questo signore che canta per un gruppo che si chiama Banda Bardò dice che Salvini non appartiene alla razza umana, alla razza umana. Tu vedi, secondo me questi qua, tipo Fedez, che ha litigato con Salvini dicendo che ha bisogno delle di goccioline, signor Piero Pelù, che ha detto che la Ruspa dovrebbe radere al suolo la sede della Lega Nord, nonché Radio Padania, non hanno capito una cosa, secondo me, al di là delle ragioni, dei torti, delle espressioni, eccetera, eccetera, ognuno poi giudica. Più parlano in questo modo e più voti quello prende, amico mio. Non hai capito che Piero Pelù, questo della Banda Bardò, Banda Bassò, che cazzo è la Banda Bardò? Non so io. Sì, un gruppo. Pure Gassman, che dice che deve leggere qualche libro. Tutte persone che fanno ottenere a Salvini dei voti in questo modo, non hanno ancora capito. È lo stesso, ma è lo stesso effetto che faceva Berlusconi quando lo attaccavano forsennatamente. L'effetto è questo, è normale. Questo è il mio parere, che te devo dire? Cioè, tu pensi che Fedez sposti i voti? Tu pensi che Piero Pelù sposti i voti? Ma cosa vuol dire spostare voti? No, ma non fanno... è che sposti i voti, no? Si diceva una volta di Berlusconi, la televisione. Oh, aspetta, voti. Per esempio, Ignazio Marino, quando si rivolge in questo modo alla destra, ma dicendo... Ha ragione, sì, ha fatto una bella uscita. Questa ah, mi è quella piaciuta, sulle fogne. Ma tu sei veramente una cosa di un razzismo pazzesco. No, razzismo, cioè, no, io sei sono razzista un fondamentalista. No, sei razzista. Razzista, sei veramente razzista. Sei come si diceva negli anni 60, allora, 70, se avesse no? Utili... fascisti, carogne e tornate delle fogne. Ma che c'entra? Quello ha parlato della destra romana, non parlava di fascisti. Lui ha parlato di un mondo che deve tornare. Ma che vuol dire? Ma che un mondo che ha rotto la città. Ma che cazzo vuol dire? Ma a parte che c'è mezzo PD, a parte che c'è mezzo PD inquinato. Magari là parlava anche di quello. No, era un modo di dire da comizio. Sei si veramente... perdona chi. Ma scusa, io non ho capito perché si perdona agli altri qualunque parola comunque, forte. Sentiamo Marino. Lo dai. Fa Marino, che deve essere il chirurgo TikTok. No, vabbè, finalmente Marino tira fuori le palle, dice una cosa e tutti lo attaccano. Ma perché? Se ti piace così. Ma perché? Marino. Ed è quello che veramente io ho visto. Arrivando in Campidoglio, e dobbiamo dirlo, dopo le rovine lasciate da quella destra che oggi si erge a scudo morale di questa società, ma non hanno vergogna! Perché non tornano nelle fogne da dove sono venuti? È là che devono andare! Adesso secondo me un pazzo, no ma tu dici un pazzo è autorizzato, se quale sei veramente vergognoso. Un pazzo, siccome sono tu giustifichi qualsiasi iperbole, ma siccome Marino no, ma che c'entra, altri, ma quello è il sindaco di Roma, ma è il sindaco di Roma quello che... il sindaco, beh certo, è il sindaco di Roma che dice se... ma da quando è che fai così? Scusami, no, ma, da quando è che fai? Ma a Matteo Salvini, al nostro amico Salvini, hai perdonato qualunque iperbole linguistica? No, ora Marino, sindaco di Roma, ha tirato fuori le palle della lupa. Devono andare nelle fogne. Quando uno dice così, sono autorizzato. Chiunque è autorizzato. Retorico. È autorizzato a sparare in faccia ad Alemanno. Ma che. Ma non è così, hai ragione. E allora la Ruspa, uno è autorizzato a sparare ai Rom? Ma dai, non è la stessa cosa, dai. Non è la stessa cosa. Ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Che tocca adesso, fra poco abbiamo Salvini, però ti faccio sentire quest'altra cosa. Ti faccio sentire questa. Salvini, sempre sulla Ruspa, sarà. Ma che Ruspa? Che c'entra la Ruspa? Sarà dai, con Putin e Orban, il suo amico Putin. E Orban. Ah sì, la Boldrini, ti faccio sentire la Boldrini. No, la quale Boldrini non mi sta a Milano a un certo punto, non so, gli fanno una domanda su Salvini e lei prima fa la faccia seria, poi qualcuno le suggerisce, guarda, sorridi, cioè lei come un robot tac, cambia improvvisamente l'espressione. Sì. La cosa. Guardi, è mia abitudine non fare polemiche, ma occuparmi delle questioni e collaborare alle soluzioni. Allora, abbiamo Matteo Salvini con noi, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Padania libera. Ma che c'entra? Padania libera è tramontata. Tu conosci questo Enriquez dei Banda Bardò che dice che non appartiene alla razza umana? No. Non ho il piacere di conoscerlo. Mi piace la musica, non conosco la musica di questo signore, me ne farò una ragione. è un poveretto, quindi io non appartengo alla razza umana. Così ha detto, Salvini non appartiene alla razza umana. Il mondo si è creato diversi, che ne dicono quelli che si inventano i reati di omofobia, e quindi io sono diverso dal signor Enriquez. Non dico migliore o peggiore, ma sicuramente diverso. Senti, ma tutti questi cantanti, no? Artisti, eccetera, che si scagliano secondo contro me, di... non ti fanno venire... più dischi. Non vendono più dischi, hanno bisogno di fare un po' di cinema. Io oggi ho parlato con alcuni cantanti veri, molto meno conosciuti, e dicono che nell'ambiente si sa. Quando uno è in difficoltà, quando uno ha delle grane con la casa discografica, quando uno viene dimenticato come il signor Piero Pelù, e allora dagli al Salvini, dagli qui, dagli là per farsi un po' di pubblicità. Fedez è un caso a parte perché lui di dischi ne vende tanti, ripeto, c'è andato pure mio figlio al concerto, lui ha un problema suo evidentemente, però non le goccioline, perché non ha detto che era tuo figlio, però perché ha detto le goccioline? Fedez. Perché ha detto le goccioline? Non capisco, tu prendi del matto, ma sì, perché cosa vuoi fare? D'altronde di fronte a Fedez i Frank Sinatra, i Louis Armstrong, i Fabrizio De André impallidiscono, quindi non posso mettermi a discutere con tanto personaggio. Però io voglio capire una cosa, tutti questi cantanti, no? C'è un po' una sindrome da... Ma lui c'ha Celentano, scusa, dalla sua. No, vabbè, sì, d'accordo, certo. No, c'è la classica spocchia culturale di certa sinistra per cui non puoi fare cinema se non sei di sinistra, non puoi fare teatro, non puoi fare poesia, non puoi fare musica. Che non è affatto vero, sicuramente l'Italia raccomanda il sistema culturale ostaggio di certa sinistra, poi ci sono delle menti libere che non voteranno mai la Lega nella vita, immagino, da Celentano, perfino a Jovanotti, che una volta ha twittato ragionerei volentieri con Salvini, apriti cielo, solo per ragionare con un leghista c'è qualcuno che si scandalizza. C'è stata la festa della Fioma a Bergamo nel fine settimana, pensate che livello siamo scesi, e avevano invitato per parlare di lavoro e di pensioni un rappresentante della Lega. Putiferio, apriti cielo, hanno dovuto annullare il dibattito perché vuoi avere un leghista a Bergamo che parla di lavoro con la Fiom? Secondo me sono mentalmente ristretti certi personaggi che non si confrontano. Senti, allora, peggio per loro. A proposito di questo, Berlusconi, passiamo ad un'altra cosa. Berlusconi dice che bisogna fondere Forza Italia e la Lega. Vuoi dare una risposta su questo? Cioè, mai la Lega si fonderà con Forza Italia? La Lega non si fonderà. Gli esperimenti delle fusioni dei dissimili lo sentivamo prima da Giulio Sapelli 20 minuti fa su Radio 24 con Sebastiano Barisoni. Se non sono riusciti a fondere 29 paesi europei in un esperimento sbagliato con una moneta sbagliata, non puoi fondere storie politiche diverse, si può ragionare, si può collaborare, però non farete mai una lista comune con Forza Italia. Ma le fusioni abbiamo visto in passato, no? La Lega non pretendo che abbia ragione su tutto, anzi spesso e volentieri abbiamo però, se resta questa legge elettorale, uno si deve pensare ad una cosa: comunque la Lega andrà sempre da sola, ci sarà sempre il simbolo della Lega. Ma il simbolo della Lega ci sarà, perché in questo momento ce lo chiedono le persone del nord e anche del sud, fortunatamente. Poi secondo me sta legge elettorale la cambierà pure Renzi, perché si è accorto che il diavolo sta le pentole, ma non si è accorto che al ballottaggio il PD solo contro tutti può perdere, questa è la realtà. Esatto, quindi contro di noi per cui la cambierà perde. La cambierà, dagli un consiglio, cambiamo insieme cui... cambiamo no, ma... Io ho visto che la Boschi ha detto che berrebbe un caffè con me, ma io bevo il caffè con tutti se serve a qualcosa. Non vorrei, ecco, che il Parlamento fosse ostaggio per altri 6 mesi della menata sulla legge elettorale. Adesso ho tirato fuori i matrimoni gay, adesso ci manca la legge elettorale, il conflitto di interessi. Vabbè, matrimoni gay, quello dai, è trasversale. Sì, lo so. No, ragazzi, l'emergenza per i gay e per gli eterosessuali penso sia il lavoro. Sì, vabbè, penso che per un gay, così come per una lesbica, prima di sposarsi occorre avere i soldi per sposarsi. Quindi non prima è cancellami la legge Fornero e gli studi di settore. No, ma questo è fumo negli occhi. Ma non è in alternativa, di lavoro. Il Parlamento domani si deve occupare di legge Fornero e di studi di settore, domani. Poi una volta superati gli studi di settore, cancellata la legge Fornero, facciamo sposare Parenzo col suo amico, con chi vuole. Non io sono felicemente domani, io non domani. Mi sposo, io sono felicemente accasato con mia moglie, quello che vuoi, che conosci anche per giunta, per cui sì, che è molto più bella di te, questo è fuori dubbio. Vabbè, questo amico mio, sì, ma twitti pure le cose dicendo, ma fa dei tweet Parenzo ogni tanto, che sono, io li trovo veramente imbarazzanti. Ma Parenzo però dai, lo sanno anche gli ascoltatori, a volte è costretto a sostenere delle cause che si capisce lontano un miglio, a cui non crede neanche lui. No, dai, questo quando non difende per partito preso i Rom. Marino, ma io non ma pensa i Rom. Se un sindaco della Lega avesse detto che la sinistra deve tornare nella fogna, comunisti tornate nelle fogne, ma avete detto ma di peggio voi, stato massacrato, ma denunciato, ragazzi, ma... Ma tu ti rendi conto di quel che hai detto nell'ultimo comizio di partita? Palle per una ruspa che viene usata da decenni per sistemare le strade, e il sindaco di Roma destra torna nelle fogne. Ma questo è un problema, questo signore ha dei problemi. Senti, ma qui non puoi tu dire, però qui è il buon non puoi fare quello del bon ton, però tu, no, ma sto dicendo Matteo Salvini ha tutti i difetti del mondo, ma pensate se un sindaco della Lega, se il sindaco hanno detto Varese, di peggio, o se il sindaco di Padova, no. Ma come no? Papitonci, buon anno, hanno fatto il cartello contro i rom stradale. Destra, tornate nelle fogne, è roba d'anni 70, dai. Ma hanno detto che i rom sono feccia, oh! Ma che c'è? Ma vi ricordate o no? E quella è una cazzata. Però il sindaco di Roma che dice la destra deve tornare nella fogna, oggettivamente ricorda gli anni 70, i Katanga, queste robe qua. No, non mi scandalizzo, non me ne frega nulla. Una crociata di Cruciani. Ma non me ne frega nulla. Giustificare il Pelù, il Fedez, l'altro fenomeno della banda Bardot, poi significa che stamattina tre militanti della Lega, tre, anche in su con gli anni, che avevano il gazebo a Bussoleno, vicino a Torino, sono stati aggrediti, il gazebo è stato distrutto da un po' di ragazzi dei centri sociali. Ma che perché questo? Evidentemente uno legge, ah cazzo, sti leghisti sono pericolosi, distruggiamogli il gazebo. Ma perché sti fenomeni non fanno volontariato, non vanno a dare una mano ai bambini o in una casa di riposo agli anziani? Chi allora, usa la violenza? Fermi tutti che c'è il traffico. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. Ma sono una boiata pazzesca. Traffico no. Fate qualcosa, vi prego. La Zanzara. Allora, siamo qui alle 18.50 alla Zanzara con Matteo Salvini. Non c'erano un po' troppi bambini su quel palco a Pontida? Cioè, abbiamo sempre accusato anche... anche sua figlia con la felpa, con la magliettina della Ruspo. No, io spesso me la sono presa con quelli che utilizzano i bambini per fare politica. Portare i bambini su un palco, ma insomma, vabbè, no, questo... Matteo, che dici? Ma guarda, era la voglia di dimostrare che noi non stiamo organizzando la rabbia, la paura, il rancore, la sfiga. Stiamo cercando di organizzare un futuro migliore per i nostri figli e ci sono delle mamme e dei papà che possono decidere. E quindi il fatto che come il giorno prima a Roma ci sia stata quella splendida manifestazione senza partiti, senza sindacati, con tantissime persone, dal mio punto di vista, ecco, definire, cioè, tu sei a favore una manifestazione che rivendica il diritto di aiutare la famiglia, di aiutare i figli. Ma non era quello, era la manifestazione contro i matrimoni gay, contro la cosa gay. Dai, chi è non che diciamo non vuole la famiglia, scusa. Ma uno può essere contro il matrimonio gay. Sì, per carità. Senza finire in galera. Sì. E posso definire splendida manifestazione, tante mamme e papà che da tutta Italia vanno... Ma sì, ma per carità. Perché qualcuno è contro la famiglia, scusa, non ho capito. No, cioè, quella piazza là voleva negare diritti a altri, no, capito? Vabbè, questo... No. Ma come no, amore? Ma amore è così. Io semplicemente dico che dal mio punto di vista ragiono di diritti per tutti, mi spieghino quanto costa. Che quella piazza voleva negare. Il matrimonio è quello di cui parla la Costituzione, fra l'uomo e la donna, i bimbi vengono adottati laddove c'è una mamma e c'è un papà. Nel mio modello non ci sono tre mamme e tre papà. Vabbè, alla fine che resta? Manco se pari di costi, manco la reversibilità della pensione, allora. No, cioè... no, ma siccome non ci cioè, sono dove i soldi ci si deve, dove ci si può sposare? Dove ci si può sposare? In chiesa? No, in chiesa abbiamo detto no, in chiesa no. In comune? No, in comune no, dove non ci, secondo te la cerimonia non ci deve essere tra due. Non scimmiottare altro. Il matrimonio sia fra un uomo e una donna, se poi uno vuole vivere la sua affettività col suo compagno, ma che o la cambia, sua compagna, cosa cambia donne, a te, uomini, scusa. Per carità di Dio, a me non ma cambia. Ma cosa te ne frega a te, scusa? Basta che però non diventi una caccia alle streghe per quella che è la scelta della maggioranza. Ma guarda che è il contrario. La settimana scorsa al delirio dell'attacco ai pannolini Aggi. Sì, c'è l'organismo di controllo della pubblicità che ha attaccato gli pannolini Huggies perché hanno fatto la linea per le femminucce, la linea per i maschietti. Il buon Dio ci ha fatto maschietti e femminucce. No, quella era ridicola. Quella finta era di niente è follia. Imporre alla maggioranza l'idea che siamo tutti uguali. Non ma siamo. Ma no, nessuno uguali. Vuole, ma nessuno dice detto? Che siamo tutti uguali. Dai, nessuno lo dice. Non c'è nessuna propaganda gender. È una cosa ridicola. Dai, ci sono quattro deficienti ecco che scrivono delle cose per cui si possono. Prima elementare qualcuno voglia insegnare a mia figlia quando ci arriverà come ci si tocca, ma no, ma quello lo... gliele spiegano il papà e la mamma se proprio devono fare. Ma quello una, ma non, ness- non c'è nessuna ma non c'è nessuna maestra a scuola, un maestro a scuola elementare che insegna. C'è gente strana in giro, c'è gente strana. Vabbè, c'è la gente strana. Beh, quando sì, anche quando a Pontida ne ho vista molte con le corna sulla testa, sì. Bravo, vabbè, di gente strana ce l'hai in giro, bravo. Io non ho capito questo Vedo questo. Aspetta una cosa, ma prima dire una cosa, prima di salutarvi, perché c'è qualcuno che vuole riportare la guerra in Europa, e quando si parla di guerra io divento Putin. Cattivo. Ma oggi i ministri degli esteri europei, quindi anche l'italiano, hanno rinnovato tranquillamente altri 6 mesi di sanzioni contro la Russia, e la NATO ha raddoppiato la forza di intervento rapido ai confini con la Russia. Meno male. C'è qualcuno che gioca la guerra nel 2015, sono Putin. Dei criminali. Putin sono gioca dei guerra la fondai, no signori. Perché a stuzzicare il can che dorme, poi si rischia. Ma tu ti metteresti dalla parte, metteresti momento, da, se ci fosse una guerra, ti metteresti dalla parte di Putin? Ma che convenienza hai che io so? In questo momento a stare in un organismo con la NATO che gioca la guerra con la Russia? Cioè, fuori l'Italia dovrebbe andare fuori dalla NATO, fosse per te. Ma ragazzi, se c'è qualcuno che gioca la guerra nel 2015 sulla pelle di mio figlio, non lo fa col mio consenso. Quindi usciamo non dalla lo fa NATO, col vabbè. Mio consenso. Ecco, io voglio via dall'euro, via dalla NATO, perfetto. Scusami un attimo, ma a proposito di ruspe, ma a tuo figlio l'hai regalato il modellino? E non l'hai visto? Della ruspa, ma me ne hanno regalate alcune decine. No, tuo figlio ce l'ha, tuo figlio. Ma è grande ruspa, ormai. Sì, sì, certo, ce l'ha, ha smesso di giocarci da un po' di tempo. E che c'è, dove ce l'ha? In cameretta sta ruspa? Ma penso di sì. Adesso alla figlia ha regalato. Allora, vogliamo dire una parola definitiva sul sindaco di Milano? Allora, però definitiva questa cosa qua, perché l'altro giorno Feltri che... Temo che non potrà essere io. Sicuramente non ti candidi. Temo che non potrò essere io. Temo perché, che non ti candidi. Ragazzi, perché qua c'è Renzi che traballa e io. Ma diciamolo, non mi candido. Non mi candido. No, me lo chiedono in tanti e questo mi riempie di orgoglio. Però non ti candido. Però oggi come oggi è difficile, perché io penso che l'anno prossimo si vada a votare a livello nazionale. Siccome per Renzi i sindaci sono solo degli esattori fiscali. Ma chi potrebbe essere? Uno fuori dai partiti? Ma ci sono parecchi milanesi del mondo dell'impresa. Non so, Feltri. Del commercio, Feltri. Ma Feltri di Bergamo, dai, no, non possiamo esportare. Non facciamo come il PD che manda Marino a Roma e di Genova. I risultati. A Milano ci sono 1.200.000 residenti. Lupi, no, vabbè, Lupi in questo momento sta col governo Renzi. Senti una cosa, vabbè, comunque tu non, quasi certamente non ti candiderai. A proposito di calcio, no, 30 secondi sul calcio, ma non è che al posto dei Galliani Salvini farebbe meglio sul mercato? No, io porto a Milano, si dice Ufele fa il tomestè, che significa il pasticcere faccia il pasticcere. Io faccio, spero nella migliore delle maniere possibili, quello per cui gli italiani mi pagano lo stipendio. Comprare calciatori non è la mia specialità, vabbè. Anche se ho visto che non ne stiamo azzeccando molto in questo periodo. Però siccome domani vedo Berlusconi, ecco, parleremo anche di questo. Vabbè, ciao, presto, ciao. Ragazzi, iniziamo così, 800 24 00 24. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Abbiamo un sacco di roba, una telefonata pazzesca in Sicilia, pazzesca. Volevo dire che la Zanzara è uguale a Radio Padania. Cuore Denari Expo, 8 profili, 2 coach, un cuoco e un nutrizionista e uno stile alimentare da cambiare. Ma non solo, c'è anche la nostra lista della spesa, ricca delle migliori offerte sul mercato e in linea con un acquisto consapevole e sostenibile, che sono poi le parole chiave di Expo. Il sedentario, l'over 50, lo stressato, la coppia con e senza figli, lo sportivo, il vegetariano, la donna in gravidanza, seguiremo 8 categorie in cui tutti potranno riconoscersi. E allora andate subito a completare il questionario che vi aspetta sul sito di Radio 24. Cuore Denari Expo, ogni mercoledì con Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani, dalle 11 alle 12.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Però dai, lo sanno anche gli ascoltatori, a volte è costretto a sostenere delle cause che si capisce lontano un miglio, a cui non crede neanche lui, dai. Questo signore ha dei problemi, va aiutato. Allora ragazzi, nel weekend ho letto una cosa incredibile, già è una notizia il fatto che io abbia letto, Parenzo, comunque sì, esatto. Ho letto una cosa incredibile. Ministeri, Agenzia delle Entrate compresa, anche la Camera dei Deputati devono un sacco di soldi al comune di Roma per l'immondizia. Cioè, cosa succede? C'è la tassa sull'immondizia e questi enti, ministeri, ripeto, ascoltate bene, perché sto parlando di una cosa al di là degli scherzi, dei nostri sberleffi, delle cazzate che diciamo, questa è una cosa veramente seria. Cioè, ministeri, il Ministero dell'Interno per esempio 3 milioni e mezzo di euro, il Ministero delle Infrastrutture 2 milioni e 2, il Ministero dell'Economia 700 mila euro, ma sono morose anche l'Agenzia delle Entrate, la Camera, eccetera, eccetera. Tutti questi enti, comprese anche delle banche, perché poi uno può dire gli enti è una partita di giro, no? Sono sempre soldi nostri, vanno dal pubblico al locale, cioè a Roma, non pagano la tassa sull'immondizia per un totale credo di oltre 30 milioni di euro con cui il comune di Roma potrebbe risanare gran parte dei suoi bilanci. Questa è la situazione. Poi gli stessi enti, Agenzia delle Entrate, chiedono i soldi agli italiani, ma li pretendono subito dagli italiani i soldi questi qua. In realtà loro sono morosi per milioni di euro nei confronti del comune di Roma. Cioè, se tu non paghi la tassa sui rifiuti, Parenzo, ti fanno un culo così. Ma scherzi, arriva, danno subito la cartellina esattoriale. Cartella esattoriale, Equitale, rottura di cazzo, eccetera, eccetera. Questi signori, invece, le banche, per esempio, io sto leggendo delle cose incredibili. Secondo una cosa che ha rivelato il senatore, credo, Augello, le assicurazioni generali. Sì, mi ha scritto Augello nel weekend. Cioè, peraltro, la Banca Intesa, 125.000. Ma le vogliamo pagare sti soldi al comune di Roma? Ma paghiamo sti soldi, ma siete veramente dei peracottari. Unicredit, non so che agenzia o tutta l'Unicredit, quasi un milione di euro di arretrati di tasse sui rifiuti. Ora, per carità, le tasse sui rifiuti sono anche alte, però ste banche paghino. Sì, sì. E non rompano i coglioni. Guarda, guarda, proprio ieri ero a Capri, il senatore Augello, non ho risposto, mi ha scritto: buongiorno, sono il senatore Augello, ho avuto il suo numero da un'amica comune, non diciamo il nome, Esther Mieli. Quando vuole ci sentiamo per quella storia dell'Atari. Caro Augello, ti chiamo domani e sarai da noi alla Zanzara. Che cazzo ce ne frega? A me invece non è vero, come? Non l'abbiamo chiamato. Come? Ma io voglio chiamarlo. Ma non è vero, ma non lo vogliamo chiamare assolutamente. Ma che io voglio invece? Ma io decido io chi chiamare o non chiamare. Ma allora vaffanculo. Augello, ti chiamo domani, grazie. Marino, la destra torni nella fogna, questo ha detto il sindaco di Roma. Risentiamo, dai, risentiamo. Ed è quello che veramente io ho visto arrivando in Campidoglio, e dobbiamo dirlo, dopo le rovine lasciate da quella destra che oggi si erge a scudo morale di questa società. Ma non hanno vergogna? Perché non tornano nelle fogne da dove sono venuti? È là che devono andare! È là che devono andare, nelle fogne! Sì, sì, dagli sta, addosso! Dai. Sparate a questa destra! Tornino nelle fogne! Non hai detto lo stesso. Ma quando c'è mezzo Salvini PD evocava c'è la ruspa! C'è mezzo PD coinvolto, non a Roma, hai, vergogna! Sei veramente un ipocrita, proprio, scusa, doppio pesista. Ma che c'entra proprio la ruspa di Salvini? Quando Salvini, i sindaci della Lega di mezzo Nord, scusami, Italia dicevano delle cose violentissime contro i migranti. Non hai detto niente, scusami, tu, Stai parlando. L'hai detto. Ma che c'entra adesso il questo? Il silenzio hai usato, il silenzio cinico. Senti, nascondendoti capite? Dentro la propaganda politica della Lega Nord per l'indipendenza, dici? Della Padania. Questo hai fatto. Un uso politico e strumentale della ruspa. Della radio. Della radio, non della ruspa. Vabbè, della radio e della ruspa. Chi è che mi sta chiamando? Io vorrei capire chi è che mi chiama, perché ogni tanto qualcuno mi chiama. No, però sei un ipocrita. Aspetta, aspetta, vero. Pronto? Chi è? No, aspetti, avvocato, adesso non la possono, sono in diretta, fra un po', no, fra un po' la chiamo. No, mettilo in onda. Avvocato, ma stiamo scherzando. Mettilo in onda, così sveliamo tutto. No, in onda. Sì, sì, sì, lo richiamo io l'avvocato, perché credo sia lo stesso. Aspetta che lo chiamo. No, aspetta. Il mitico Montanini durante il weekend, sì. Me l'ha segnalato la Mangini. Ma chi la se ne frega, chi te le segnala, cazzo? Ma non ce ne frega niente a noi di queste cose. Me l'ha segnalato questo. Ma chi gliene frega quello che sta guidando? Chi te l'ha segnalato? Ma dai, ma scusa, ma smettila con queste puttanate. Non gliene segnalato. Frega niente, ma non gliene frega niente a nessuno. Vabbè, dai. Vabbè, Giorgio Montanini, dai, forza. Giuseppe Cruciani della Zanzara ha conosciuto questa frase di Warhol prima di noi, l'ha capita, l'ha presa e ha detto: con le miserie umane, la stupidità umana, io ci posso fare una trasmissione bellissima. Lui che è il genio del male, che ha capito, insieme a Sancho Panza Parenzo, non so se lo conoscete, lo scudiero di Cruciani, ha capito, se io faccio parlare la gente, posso far venire fuori il peggio della società. La miseria umana, se la faccio parlare, diventa un programma straordinario. Sancho Panza! Aspetta, aspetta. sì. Me l'aveva segnalato ieri. Oddio, che palle, non ci rompere i coglioni, dai, su. Infatti la zanzara che è? Sti negri di merda, buttati in mezzo al mare, spariamoli froci, ma tanto rossi e neri e tutti uguali, un magna mannice. Ma che vuoi fare? Vuoi limitare la libertà di espressione? Sì. Sì. Se sei un pizzettaro del Cernusco sul Naviglio e c'è la quinta elementare, zitto, che palle. Non ci interessa sapere come la pensi. Concentrati sulla pizza, che a Milano la pizza fa schifo al cazzo. Concentrati su quella. Devi per forza esprimere la tua opinione in radio, per forza, non lo fa. Sta da quell'amico, cioè. Genio assoluto. Andiamo a Verona, Lucio, vai. Sì, buonasera. Dimmi, dimmi. Buonasera, altro che ipocrita. Sì. Ha ragione Parenzo, sei un leccaculo di Salvini, cazzo. Sì, leccaculo, sì, leccaculo. Lo si sente dalla voce, lo si sente da come fai, da quando lui ha detto che Marino, quello che ha detto Marino è una cosa indegna. No, ovviamente l'ho detto prima io, ma l'ho detto prima io, l'ho detto prima io. Ricordi Gentilini cosa diceva? Te lo ricordi? Gentilini, l'abbiamo preso per il culo mille, l'abbiamo preso per il culo mille volte Gentilini qui. No, non è detto che c'era Gentilini che diceva che bisogna sparare sui bambini zingari vestiti dalle ma proprie. L'abbiamo criticato mille volte. La polizia etnica dei Maradona, i comunisti li chiamava delle merde. Ti ricordi? Certo, assolutamente. E ti ricordi perché non gli hai detto di Muraro, il suo ex presidente della provincia? Muraro, perché non gliel'hai ricordato? Ma che gli devo ricordare? Ma che gli devo ricordare? Sono leccaculo di Salvini! Bravo, testa bassa contro Cruciani! Sveglia! Resistenza di sinistra! Attacco! Sei una cosa vergognosa! Sei un giornalista del cazzo! Impossessiamoci della trasmissione, compagni! Sei un leccaculo! Bravo, perché li ami, giù, ami i leghisti, perché tu li incontri per strada, io... non entri mai in biblioteca. Voglio leccare se non il tuo... incontrare, se non vuoi incontrare leghisti per strada, vai in biblioteca, cazzo, lì non li trovi. Bravo, capito? Tu sei un leccaculo. Oh sì, anche... leccaculo, sì. Quando parli di Marino tieni una, ma ho criticato, ma lo difendo. Ha ragione, aspetta, devo fare sfogare, fammelo fare sfogare. Ma nel punto ha ragione, fammelo fare sfogare un attimo. Però ha ragione, sei indeciso fra Grillo e Salvini, non sai più chi sceglie, no? Voglio leccare il culo a tutte e due. Come il potere economico che non sa scegliere, perché è lì che aspetta dopo Salvini e deve ancora scegliere Grillo o Salvini, ma secondo me sceglierà Salvini perché è funzionale a questo tipo di potere economico. E la tua cara Confindustria è funzionale ai Salvini, è per quello che lo montate così, è per quello che c'è 10 volte in televisione, senti, perché è la Confindustria, i padroni che lo stanno montando, padroni, e creando come successore di Renzi. Ha litigato di Salvini? Hai capito? E poi sai cosa? Dimmi. Quando parli degli zingari, ad esempio, no? Dimmi, Lucio, ma lo sai come si risolve? Io ce l'ho la ricetta per gli zingari, sai? Sì, qual è? È il lavoro obbligatorio per tutti. Sì. Ma allora sai cosa succede? Che tu non puoi più andare in giro in Porsche, un BMW, in Mercedes, perché se abbiamo lavoro obbligatorio per tutti. Io manco ce l'ho la macchina. La dignità, se ha lavoro, non come il tuo coglione amico di Salvini che non ha mai lavorato in vita sua, cazzo, che ha fatto che hai 20 anni, che fa solo politica e tu non gliel'ha mai detto. Scusa, non gliel'ha mai contestato. Scusa, Lucio, scusami. Capito? Sì, ho capito. Lucio, scusami un attimo, prima della Neuro, vorrei capire una cosa. Io non uso BMW né macchine così, ma vorrei capire. Ma come non lo usi? Se mi hai detto una volta, mi hai detto vuoi fare un giro con la mia Porsche, mi dicevi. Ma era un modo per prenderti per il culo, amico mio. Sì, non era, va bene, avrai la Mercedes. Ma non ho nessuna Mercedes, non mi piacciono proprio le macchine. Cioè, non ti piacciono le macchine? Non mi piacciono le macchine, sì, è un problema. È un e problema. Che cazzo ne fai di 10.000 euro al mese? Dove li spendi? Ma sono cazzi miei, a mignotte. È possibile o no? Lo so che ti piace. Ma cosa, nemmeno quei. Fai concorrenza al pregiudicato di Arcor. Ma per fortuna non ho bisogno di spenderli ancora da quel punto di vista, cioè quando succederà come le scorazze, dove cazzo le porti, in bicicletta sulla canna, dove cazzo le porti, con cosa Sei veramente... non deviamo. Sei veramente un po'. Ha ragione. Ma cosa sul punto? Io Di Marino ho criticato. Io Di Marino, ho criticato una frase. L'altro giorno l'ho difeso contro Renzi. Vedete mentre che... Ma Marino, ascolta Cruciani. Marino è un cretino. Lo so anch'io che è un cretino. Marino, lo so anch'io. Io l'ho criticato per. Un cretino. Vabbè, ma lascia perdere. Un cretino. Doppio cretino. Vabbè, ma tu pensi che sia cretino? Anche Salvini va benissimo. Io penso che sia meno cretino. Ma diglielo, sono cazzi miei, ma se non glielo voglio dire. Ma guarda che sei incredibile. No, diglielo, perché dici Di Marino che è un cretino. Stai fermo lì, Lucio da Verona, che adesso ti do due gocce di Xanax se non stai fermo, dai. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Sei un leccaculo di Salvini. Sei un grande leccaculo, sei. Sei una cosa vergognosa. Sei un giornalista del cazzo. Leccaculo. Whatever you want. Whatever you like. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. Oh, a proposito di Padani e di Pontida, Parenzo, che ne dici di un Calderoli che a un certo punto si è messo a portare due mattoni, signor Calderoli? Sì, fermo, Lucio, arrivo Lucio. Mi sono apporsato la borsetta della spesa quest'oggi, con due tipologie di prodotti, adesso ve le faccio vedere, eh. Due mattoni, ma come notate sono di due tipi diversi. Uno è pieno, che è quello per costruire il muro modello Ungheria per non farli venire più. Uno è forato, perché come giustamente hanno detto la Boldrini e tanti altri personaggi, il muro lo facciamo. Questo è forato perché bisogna fare i ponti. Noi dobbiamo fare un ponte, perché sennò da che parte passano per tornare a casa? Un ponte a senso unico, per mandarli di là. Poi se vogliono approfittarne anche la Boldrini e tutti gli altri, per andare in Libia, un cammello ad accoglierli sulla riva, la troveranno sempre. Comunque ragazzi, umorismo padano. Comunque la pensiate, la vicenda della Campania è incredibile. C'è un governatore, De Luca, che non si sa bene quello che deve fare adesso. Probabilmente vogliono convocare la giunta e fare la prima riunione del Consiglio regionale e nella stessa prima riunione del Consiglio regionale nominare la giunta prima della sospensione di De Luca, in modo che sia tutto un marchingegno per permettere a De Luca sostanzialmente di nominare un suo, sarà sospeso fino, non so, forse a ottobre, novembre, quando si pronunceranno gli altri tribunali, fino a quando ci sarà un suo per nominare un suo fedelissimo come presidente provvisorio della Campania. Senti come risponde ai giornalisti che gli parlano di passaggio di consegne. Senti la quantità di stupidità, ma veramente qui c'è gente che non ha niente da fare la mattina alla sera. Cioè, quale stupidità? Qualcuno si è meravigliato alla proclamazione, non era presente. Ma è stato mai presente qualcuno alla proclamazione? Però magari al passaggio di consegne. Incredibile. Passaggio di consegne a chi? Passaggio di consegne. Se bisogna lasciare le chiavi, c'è la portineria dell'ospedale del mare che è stata attivata. Si possono lasciare là le chiavi. Possiamo. State tranquilli tutti quanti. Passaggio di consegne, c'è la portineria, ma per cortesia. Poi sempre sui giornalisti, raccontate fesserie. Ma perché non fate lo sforzo di leggere e di informarvi anziché raccontare fesserie sui giornali? La quantità di imbecillità che ho letto sui giornali in questi due giorni è sconvolgente. Ma sapete che ci sono le leggi in questo paese che regolano tutto? Beh sì, certo, lo sappiamo, caro De Luca. Appunto, per carità, quello, c'è una legge per cui dovresti essere sospeso, però all'interno di questa legge i passaggi come al solito possono essere... Lo sai che qualcuno potrebbe addirittura denunciare Renzi per abuso d'ufficio se non sospende De Luca? Sì, era uscita nei mesi prima ragazzi, delle elezioni. A me non me ne frega un cazzo di portare tutto in tribunale, però francamente ci sono stati sindaci e altri amministratori, mi dicevano, sospesi. Me lo diceva l'altro giorno Telese, parlando in macchina. Luca Telese? Come sì, Luca, l'amico Luca Telese, dice ci sono fior di sindaci e di amministratori sospesi. sospesi immediatamente. Come lotta immediatamente. Contro lottava. De Luca, come lotta telese, sì. Come lotta telese. Lottava come un leone, come perché lotta. ci sono amministratori sospesi immediatamente e sì. Ci sono amministratori invece che fanno il traccheggio come De Luca, in attesa probabilmente di nominare un suo fedele. Adesso, a me, ripeto, De Luca è il numero uno, per me potrebbe essere anche il re della Campania a vita, senza elezioni, senza, cioè, potrebbe, senza più, elezioni, sì, a vita, sì. Col trono a vita, non me ne frega. Borbonico. No, d'altra parte servirebbe sospendere le elezioni in Campania per 20 anni. Sì. Cruciani, due punti, sospendere in Campania, sì, sì, in Campania. Io vorrei De Luca governatore buon senza elezioni a, Napoli, a vita. Buon viaggio, no, buon viaggio, buon viaggio. Governatore a vita lo vorrei, a vita. Cioè lo vorrei governatore per 20 anni, commissario straordinario della Campania che decide tutto, tutto. Così, ma ragazzi, così si governa la Campania, altrimenti come la vuoi governare? Con le elezioni, con i partiti, con Danna e ti manda a fare in gula, così, dai, su. Ma di che stava a parlare, dai? Lucio, allora che stavi dicendo? No, ma tu ti preoccupi di Marino e di De Luca, no, vorresti anche De Luca, però, ma sai che a chi stiamo dando in mano l'Italia? L'hai sentito Cagliaroli? Ma hai visto Borghezio a Pontida con le corna? Che ha fatto? Beh, le corna, Borghezio è simpatico, dai. Ma ti rendi conto che personaggi? Se vuoi aprire un circo va bene, con Bonanno e Borghezio va bene, se vuoi fare il direttore... Ma Borghezio fa, Borghezio è... Se vuoi fare il domatore dei leoni va bene, però ragione, guarda che questi qua sono, cioè, in qualsiasi altro paese non li prenderebbero nemmeno per fare il bidello a scuola, ma ti rendi conto che questi qua gli diamo in mano l'Italia fra poco, Ma ti rendi conto? L'hai sentito Calderoli quante cazzate ha detto una dietro l'altra? Vabbè, ciao. Lucio, ti saluto. No, lascialo parlare. Vabbè, anche lui ha parlato senso, 20 minuti che parla. Ciao, Lucio. Mirella, Genova, vai. Pronto, buonasera. Sì. Ecco, capisco che la mia domanda davanti a quello che lei dice, la corruzione è poca cosa. Mm. Poca cosa, oddio. Io chiedevo, ma se io mi sentissi un'altra persona, e mi spiego, e poi faccio delle operazioni chirurgiche... e divento quella persona, allora sulla mia carta d'identità dovrei mettere l'altra persona che sono, non quella che sono nata. Allora, quindi, se io nasco donna e mi sento un uomo, poi mi faccio tutte le operazioni, divento un uomo, quello è più complicato. Perché devo avere sulla carta d'identità? Io sono nata donna, come faccio a sentire? Cioè, non si ci può sentire. Non capisco qual è il problema. Lei per caso deve fare un'operazione, lei? Che ne so, Mirella, magari deve fare un'operazione. No, io sto dicendo, se io nasco donna e mi sento maschio, per quale motivo sulla mia carta d'identità poi io devo cambiare il nome? No, so, perché se uno a un certo punto si sente di un altro sesso, in Italia si può cambiare sesso e dunque si può cambiare nome. Arrivederci Mirella, Giuseppe d'Ancona, vai, forza. Pronto? Dimmi. Buonasera Cruciano, sono Giuseppe d'Ancona, diverse sede provo di parlare. Sì, ho capito Giuseppe, dimmi. Io ti volevo dire che... tutte queste chiacchiere, queste robe, cose, bisogna parlare di cose serie. Al mio paese si sono uccisi in una settimana, perché hanno perso il lavoro, due persone, uno di 44 e uno di 62 anni. Sì, ci dispiace molto, allora? Ecco, no, volevo dire, invece di far parlare tutti sti fanfarloni senza fare i nomi, perché non faccio i nomi, dare un po' più spazio alla gente seria, alla gente che ha i problemi. Sì, Giuseppe, chiami il signor Barisoni, chiami il signor non so chi, chiami qualcun altro in qualche altra trasmissione, non ci venga a rompere i coglioni a noi che facciamo che... Vabbè, Giuseppe, però si potrebbe dare più spazio. Allora sei maleducato, si parli così. No, voglio dire, ma qual è il problema? Il problema suo qual è? Il problema è quando io quando tu parlavi dei vitalizi, di quella gente. Vabbè, ho capito, ma i vitalizi noi possiamo non è che ogni giorno. Perché è una cosa ma non è che possiamo passare a parlare ogni giorno di vitalizia, amico mio, sennò ma io non ti dico di parlare di vitalizia, io ti dico che devi parlare con la gente seria, la un gente po' seria, più seria, e non di coso lì, quello che ha scarcerato, come si chiama, o l'Ellemoro o quell'altro, ma lasciamo perdere Giuseppe, va dai. Bene, grazie. Alberto da Roma, vai. Alberto, dimmi, dai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Senta, io so 5-6 anni che vi ascolto, no? Sì. No, ancora non c'era Parenzo insieme a te. E la trasmissione, guarda, si lava liscia, era bellissima. Adesso ce l'hai con Parenzo, ma hai ragione, è vero. Adesso ha perso che molto. Cosa, come l'ha chiamato quello lì, Sancho Panza. Sancho Panza, sì. Che dice tutto è ruspe, cavoli, sì. La trasmissione ha perso molto, è vero, contro gli stranieri, no? Sì. Dove c'aveva Salvini al telefono, ha fatto niente, è stato zitto, vabbè, Alberto, allora? Come oggi che ci sono stati i bombardamenti che loro sono stati giudicati. Vabbè, Alberto, senti, non ce la faccio più. Loro Francesco da Palermo, dai, Francesco, vai. Buonasera. Dimmi. E allora, niente, io chiamavo perché poco fa ho sentito una discussione che, oltretutto alleato con Parenzo, vai comunisti là, come erano, compagni, uniamoci forte, perché si incazza che tu guadagni 10.000 euro al mese, come cammini, come spendi. Ma tutta questa gente frustrata, che non si è mai realizzata, ma che cazzo vogliono? Ma no, nessuno se l'è presa guadagna con lo stipendio di nessuno. Io appoggiavo quel caro Francesco da Palermo, quell'ascoltatore e ti permette di parlare sempre e coprire tutti gli altri. Fai pronto me, quell'ascoltatore ha detto una cosa sacrosanta. Fai parlare e poi repliche. Parla caro. E allora fai silenzio. E allora parla. Tu sei un falso moralista, tu sei il classico comunista che guadagna 10.000 euro al mese e ti cammina con le Timberland. Ma quale le Timberland? Le Timberland. Ma che cosa vuoi fare capire? Tu abbracci sempre cause che la massa vuole abbracciare giù e fare la massa, il contrario. Ma che dici? Le mie sono cause impopolari a differenza di quelle vostre, tue di Crugiani. Le mie sono impopolari. Non mi mettere in mezzo in questa discussione che non c'entro. E non dai mai una soluzione giusta, di quello sbaglia, ma che cazzo dici? Ma fai vai, metti i fucili, metti vabbè, i fucili Francesco, sulle ciao, coste, ciao. Va? Ciao. Attento al DDT, sai? La Zanzara. Curalo Parenzo, insomma curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due, ciao. Oh, vediamo signor Muraro, volete bastardare la nostra razza? Riascoltiamo un po' tutto. Siccome il 4% ha meno di 30 anni, dobbiamo bastardare la nostra razza con queste persone. Questo volete? Ho capito, questa è la nostra politica. Volete portare gli uomini di colore qui per bastardare la nostra razza. Allora, a me non va bene. Questo Muraro, che è uno presidente della provincia di Treviso, che è passato poi con Tosi, proviamo a chiamarlo, Parenzo, che dici? Sì, vai. Proviamo a chiamare Muraro, vediamo un po' se si scusa, se ha qualcosa di cui scusarsi. Uno che dice bisogna bastardare la razza, magari c'è gente che è d'accordo, che sta ascoltando la Zanzara, Temo che è sì. d'accordo sul fatto che stiamo imbastardendo la nostra razza con l'immigrazione, cioè negri, eccetera, eccetera, imbastardiscono la nostra razza. Pronto Muraro? Sì. Sono Cruciani, ciao. E Parenzo. Ciao. Come va? Bene. Beh, ma ti sei pentito di aver detto quella frase? Il contesto, bisogna visualizzare il contesto. Sì, certo. Il contesto. Qual era il contesto? No, è sempre, facevo un ragionamento complessivo sulla decrescita complessiva all'interno dell'Europa col 4% solamente di gente fino a 30 anni di età, sui 500 milioni che lo diceva, e il dato che aveva che l'Istat aveva comunicato pochi giorni prima relativamente al rapporto nascite deceduti nel paese Italia, meno 100.000 persone. Però scusami Muraro, adesso tu la stai infiocchettando così, per carità, però hai detto una stronzata, Mola, lasciate che te lo dica col cuore, questo hai detto proprio, anche con un, non saprei usare altre parole, te lo giuro. Guarda, cioè il discorso, il bastardare è un termine dialettale che noi utilizziamo nel Veneto, chi abita nel Veneto no. frequenta più il Veneto. Cioè bastardare è un termine, sai benissimo che è un termine anche piacevole delle volte, nel senso viene detto non con cattiveria, ma viene detto in termini proprio offensivi. No, niente affatto. Scusami. Anche tra amici si adopera tante volte, sei un bastardo quando fai delle cose. Agli amici tuoi? Così. A me non capita di dare del bastardo però, a un amico. Aspetta. Voi non abitate, forse voi siete un po' più altezzosi, avete guardato un po' più l'aspetto. Per me, io così come l'ho detta, non voleva essere offensivo, voleva essere un termine dire. Però scusa, sì, ma assolutamente, si può utilizzare la parola razza o no, secondo te? Ma nel dizionario italiano ancora ben non è scritto, non è vietata come termine. Se dopo pensiamo, viene sempre pensato in termini negativi e dispregevoli. Ma cos'è la razza, secondo te? Entità, popolazione. Ma quali sono le razze? Ma ci sono le etnie, ci sono le persone, le categorie di persone. Chiedo semplicemente. Ma, le razze. Ma dai, il modo di dire, tu sai benissimo, basta guardare nel dizionario cosa si intende, no? Ci sono i popoli europei, il popolo italiano, il popolo della Serenissima, il popolo delle varie etnie, delle varie etnie. Sono a livello mondiale. Però quindi c'è la razza veneta, la razza piave, la razza africana, la razza laziale, no, di Crugiani. No, chiedo. La razza piave. La razza piave rappresenta un modo di essere. Sì. Ci sono libri di storia. In occasione centenaria della Grande Guerra, sui muri delle grandi battaglie epocali. Sì. Adesso esisteva razza piave che rappresentavano circa 19 nazioni che combattevano qui lungo e bisogna preservare bisogna preservarlo, razza no, questo è un simbolo, di persone coraggiose. Cioè, qual è il pericolo che le donne, cioè tu sei, per esempio, tu i matrimoni misti li approvi? Ma guarda, l'amore è sopra ogni cosa. E allora, cioè, questo significa imbastardire la razza quando... Ma guarda, questo è un altro concetto. Tosi che ti ha detto? Ma non ho parlato con Tosi. Si sarà incazzato sicuramente. Io sono fatto così, cosa vuoi che ti dica? Io le cose, probabilmente ho utilizzato... A destra di Borghezio sei, a destra di Borghezio. No, non credo neanche essere a destra di Borghezio. Prendetela come volete, io ve l'ho spiegata. Ma non sarebbe il caso di dimettersi, non so da cosa, perché non so da cosa, però... Ma per quale motivo, scusa? Beh, insomma, uno che dice, volete bastardare, utilizza questa espressione, magari... Ma non capisco il motivo. Uno che esprime un pensiero deve... Se tu dici non sono d'accordo con l'immigrazione incontrollata, nessuno dice niente. Certo, se tu aggiungi volete bastardare la razza, significa... È una roba nazista. Ma chi è nazista addirittura, sembra una roba nazista. Dai, ma non parlare in questa maniera. Beh, voi fate il processo, non era mia intenzione... No, mai e poi mai sono andato in quei lidi là dove tu parlavi. Vabbè, grazie, ciao. Ciao. Arrivederci. Mauro da Mantova, Mauro, vai. Ciao Cristiani! Ah, è tornato Mauro. È tornato. Fermi tutti! Bloccate tutto! Perché parli di razzismo nei confronti della Lega? Che i primi razzisti sono gli ebrei americani. Oddio, che gli ebrei americani. 260 persone di colore. Come 200? Che c'entrano gli ebrei americani con 260 persone? Con no, aspetta, fammi sentire. Secondo te, dove sono andati a finire gli ebrei che Stalin e Hitler uccideva nella seconda guerra mondiale? Dai, tu ma non si sai, può più sentire. Se tu non lo sai. Adesso, scusa, Stalin, cosa c'entra questo? Scusa, ne ha uccisi 8 milioni. Scusi, e Hitler 4,5. Va bene, d'accordo, ma adesso cosa c'entra questo? Malato. Ma cosa c'entra questo, amico mio? Perché? Perché le lobby ebraico e questo è fissato, sono in malafede. Sono in malafede, benissimo. Tu ce l'hai con le lobby ebraiche, ma questo qua l'hai già detto mille volte. Ma rendi la cosa più attuale, re. La gente ha aperto gli occhi, anche se loro fanno tutto dietro alle quinte di nascosto. Ma le cose. Ma tu sei capace di dire. Tu sei capace di dire. Scusami, tu sei capace di dire che Hitler aveva ragione, amico mio. Tu sei uno di quelli che è capace di dire cose del genere. Ascolta, perché aveva torto politicamente? Vai, Parenzo, pensaci, ti prego, pensaci. No, non posso, non ce la faccio, è impossibile. Hanno massacrato l'economia tedesca in 8 anni. Ma la chi? Stessa cosa. Ma che sta dicendo questo? Mauro, ti denuncio se continui così, ti denuncio. ti denuncio. Allora smettila di parlare di queste cose e parla di cose attuali, altrimenti chiudo il telefono. La recessione del 2011. Vabbè, no, non ne posso più di queste cose. Parla di, parla di cose concrete, non di cose assurde, gli ebrei nel mondo, eccetera. Da 4.300 euro al mese che prendevo fino al 2010. Ma che facevi? Scusa, che facevi? Che con 200 euro al mese, meno ecco male. Le concrete. E vabbè, quello là hai perso il lavoro, che devi fare? È successo a un sacco di italiani. Ti credo, senti come parla, forse ha perso il lavoro. Ma tu lo prenderesti uno così? No, è ovvio. Un lobbista ma chi? Ma, se... ma non è un lobbista, ma nessuno ti prende, ma neanche a fare, ma nulla. Vabbè, alla ecco. Bundesbank. Poi dice ha perso il lavoro, te credo, ma senti in che condizioni sta. Ma chiunque fare il culo, bravo, ma nessuno ti affiderebbe nulla. Stai zitto, Somaro, Don Somaro. Mauro, ti massacro di schiaffi. Ma che massacri? Che paura, che paura, mamma mia. C'è Becco Torenzo in stazione, massacro di schiaffi. Ma tua figlia chi? Un cazzo, se vado in galera, ma io lo massacro quel pezzo di merda. È pazzito, faccia di culo, perso il lavoro, guarda come è ridotto, ha perso la testa, ma guarda come è ridotto, come quelle due che ha posto di pigliarlo in culo. Ma che paura, che paura. Io Mauro, io non ho capito. No, stai zitto, stai calmo. Allora, ha perso il lavoro, Mauro, io non ho capito una cosa. Ma io ho capito, stasera perché hai chiamato? Io dire, sei malato, d'accordo, questo lo so. Perché? Normale non sei. Va bene, d'accordo, va bene. Questo lo sappiamo, sei malato. Una dittatura. Ma che fa? Che c'è nel 2011? Io sono costretto a non poter andare fuori questo paese di merda che odio avanti. Ma qual è la dittatura? Vai, caro, vai. Qual è la dittatura? Qual è la dittatura? Ho una soddisfazione. Nessuno ti trattiene. Senti la soddisfazione. Nessuno ti trattiene. Senti la soddisfazione. Sai perché? Andrò in un posto dove gli ebrei ricchioni come lui non possono entrare perché la gente non c'è nella testa. E dove vuoi andare? Nei paesi arabi. Là non posso entrare. Vai, vuole andare nei paesi arabi. Pago io il biglietto, vai. No, vai. Vuole andare nei paesi arabi. Ma te ti fanno fuori dopo un secondo nei paesi arabi. Vai. Cioè, ti fanno... Io sto già trattando con uno stato arabo. Non con uno stato arabo? Ma con quale stato arabo? Sta trattando. Ma che cazzo dici? Ma se sono in contatto, stai con trattando. Ma cosa devo mandare fuori con quello che non si vede? Che cazzo dici? Ma che cosa le faccio? Non faccio solo parole io. Perché? Non faccio anche fatti. Ti ricordi? Pubblicità, tanto pubblicità. Nel 2006 quando avevate invitato quel coglione di Burchellarvi. Ragazzi, veramente siamo messi male. Siamo alla frutta. La zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Vladimir Luxuria e Maurizio Gasparri, la guerra continua. Secondo Luxuria, Gasparri è contro il gay pride perché in realtà vorrebbe salire sul carro e sculettare. Pensa Gasparri che può dire, già ha detto che il gay pride di Roma è uno spettacolo orrendo. Quando per ragioni di Stato tu non puoi salire su un carro e sculettare pure tu, allora dici che l'uva è acida. E se Gasparri rimanesse l'ultimo uomo sulla Terra, Luxuria cosa farebbe? E se fosse l'ultimo uomo sulla Terra, tu e Gasparri, che faresti tu? Grandi seghe. Sarò perversa, ma non fino a sto punto. Che poi bisognerebbe vedere Luxuria alle prese con le seghe, insomma, no? Anche lì è tutta un'immagine. Non mi soffermerei. È tutta una metafora, insomma. Non mi soffermerei. Però quella lei ha detto grandi seghe, non è che ho detto io. Scusa. Capito, però anche non mi soffermo. Feltri, sindaco di Milano, dice no perché lo stipendio da sindaco, tra le altre cose, è da miserabili. Sì, non so quanto prende il sindaco di Milano, E poi tra l'altro se guadagna pochissimo fa il sindaco di Milano, dico io. È drammatico, come tu sai io non me lo potrei permettere. Cioè guadagna tipo 150.000 euro l'anno, una cosa del genere il sindaco di Milano, roba, credo. Prova da miserabile. Oh, scoperto nel fine settimana un personaggio, caro Parenzo, è il sindaco di Mister Bianco. Sindaco di Mister Bianco, un tale Nino Di Guardo, che tanto pare che sia stato anche deputato alla regione o al Parlamento nazionale, non me lo ricordo. Nino Di Guardo, il quale se ne è uscito con alcune frasi, adesso non vi sto a ricapitolare qui la vicenda. Mister Bianco è un piccolo paese in provincia di Catania, dove c'è un sindaco che a un certo punto, durante una seduta del consiglio comunale, se la prende con un consigliere, con un consigliere comunale, per motivi amministrativi, locali, le solite faide assurde che ci sono nei comuni italiani, e gli dà dello sbirro. Questo è un carabiniere, gli dà dello sbirro, senti. L'amministrazione comunale faccia pregare, stia zitto, deve stare zitto, taccia. A Mister Bianco c'è un'amministrazione di persone per bene, oneste, nei confronti dei quali gli sbirri non hanno cosa fare. Se ne debbono andare gli sbirri, perché ci fanno schifo. Oh, devo dirti la verità, a nome del, cioè, no, a nome, l'Associazione Nazionale Carabinieri ha chiamato il sindaco, perché no. Sì. Persone che conosco. E tu come fai a saperlo? Me l'hanno detto, hanno registrato la telefonata e l'hanno mandato all'Associazione Nazionale Carabinieri, incazzati come bestie, perché ha parlato di sbirri, gli sbirri ci fanno schifo. Ha chiamato il sindaco Sentiamo. Per chiedere spiegazioni, insomma, non si può definire gli sbirri, no, sono incazzati noi, tutti i carabinieri d'Italia sono incazzati col signor Nino Di Guardo. Pronto? Sì, sindaco? Prego, sono io. Buonasera, come va? Bene. Qui l'Associazione Associazione Carabinieri d'Italia. Buongiorno, buonasera. Come va? Bene. Senta, noi siamo incazzati. Però erroneamente, non c'è ragione di essere incazzati. Ma lei ha detto che fanno, cioè, gli sbirri ci fanno schifo, rivolto a un carabiniere. E lei si dovrebbe vergognare, sindaco. No, io non mi vergogno, perché non c'è stata nella mia intenzione di offendere assolutamente l'arma dei carabinieri, verso la quale ho sempre nutrito rispetto e stima. Vabbè, ho capito, ma lei ha detto gli sbirri non hanno cosa fare, se ne devono andare, gli sbirri ci fanno schifo. Ma come c'è? Come certo? Il comportamento sbirresco di questo consigliere, ma come sbirresco? Non è accettabile. E vabbè, ho capito, ma utilizzare la parola sbirro è una parola mafiosa. Noi siamo offesi come carabinieri. Ah, non volevo assolutamente offendere l'arma e né tantomeno un singolo carabinieri, quindi io poi la mia storia... Ho capito, però sindaco, lei capisce, era proprio la frase, l'abbiamo sentita bene, una frase gravissima. La frase è quella, ma è stata strumentalizzata, ha capito, per altri... Noi qui non ne vogliamo di sbirri, non ne vogliamo, ci fanno schifo. Ma perché lei si sente, lei si considera uno sbirro? Il carabiniere è uno sbirro in parte, aspetti che le passo l'appuntato, aspetti un attimo, le passo l'appuntato. Io assolutamente... Le passo l'appuntato un attimo. Pronto? Sì. Sindaco? Appuntato Cavale al Maggiore Parenzo, buongiorno. Prosegui, signor appuntato, prego. Guardi, sono costernato, amareggiato, perché i colori della divisa, il cappello. No, il cappello, i colori, quello che hanno fatto nella storia d'Italia. L'arma dei carabinieri, si ricorda il presidente Cossiga, già presidente emerito, nonché nostro grandissimo affiliato. Ma che c'entra? Beh, vabbè, ha finito? Io le voglio dire. Ho finito, ma sono costernato. Colori, questi colori, queste divise, per me sono sacre. È come se lei ci avesse. Sputato sopra. Ma non è così. E io, in quanto appuntato attendente della. Signor appuntato, ascolti. Io mi sono rivolto a un consigliere comunale, che per caso poi fa parte dell'arma in un altro comune. È come se in quell'aula. Oh, santo Dio! No, ma è come se in quell'aula. Cosa vuole da me? Io no, nulla, ma soltanto dirle il dolore che mi costerna il cuore, perché è come se in quell'aula sacra, quali sono le nostre istituzioni, è come se fosse stata calpestata la divisa dell'arma dei carabinieri. non è così e non è andata così. Io mi riferivo al comportamento di un consigliere, e se fosse stato un avvocato, tutti gli avvocati si dovevano sentire coinvolti, oppure se fosse guardi. Stato un idraulico, ha capito? Guardi, quindi, paragonato a un idraulico l'arma dei carabinieri è come se c'entra, l'ante c'entra. Un idraulico, oh santo Dio, ma perché sei così? Questo è il punto, è come se per la seconda volta l'arma dei carabinieri che io servo da 34 anni, due mesi e un giorno. Sono sicuro che lei è una persona che è diventato il male, ma io ho dato tutto, ho dato questo braccio all'arma. Che le posso fare? No, ma se ora lei si concentra su questa cosa. Le passo, le guardi, io non ce la faccio neanche più a parlare, mi si stringe il cuore. Le passo il mio comandante di brigata. Il comandante. Mi passi il suo comandante di brigata. Comandante Crux! Oh santo Dio, ma guarda un po'. Sì, il colonnello De Crux, buonasera. Oh, signor colonnello, buonasera. Sono dispiaciuto se una mia espressione, magari poco felice, abbia potuto creare questa situazione di guardi, di io in tanti anni, devo dire la verità, non ho mai sentito un rappresentante delle istituzioni. Ma scusa, ho qui la penna in mano, ho la penna in mano, firmare una querela, un esposto. Cosa devo fare, sindaco? Mi dica lei, cosa devo fare? Io nella cosa devo fare? Cosa devo fare? Mi faccia pregare, ti faccia pregare. Mi preghi. Io nel mio intervento non ho nominato assolutamente la parola carabiniere. Io chieda scusa all'arma dei carabinieri. Chieda scusa all'arma dei carabinieri. Non c'è, io non ho nominato questo termine. Sindaco, facciamo così, sindaco, cantiamo l'inno italiano insieme, così risolviamo tutto. Ma a me mi dici in italiano, ma io sono stato sotto scorta per anni. Appunto, cantiamolo insieme, aspetti un attimo, aspetti un attimo, cantiamolo insieme. Un attimo solo. Ma ci senti? Oh, io mi metto sull'attenti, io sono sull'attenti, signor colonnello. Mettiamoci tutti sull'attenti. Io sono sull'attenti. Appuntato! Eccomi! È una vita che sono sull'attenti. L'inno, eh? Dove la come lo so l'inno, ma chi mi ha preso per un delinquente? Che scava di Roma il Dio la creò. Sull'attenti fratelli d'Italia, Italia sedesta nel mozzicino cinta la testa. Creò. Stringiamoci a corpo. Com'è che fa, sindaco? Finale come fa? Morte. Morte. Si affronti alla morte l'Italia che fa. Signor colonnello, io le posso spedire un mio libro. Mi spedisca il libro. Se mi dà l'indirizzo, sì. Io glielo spedisco, così poi avrà modo. Io glieli spedisco tutti e due. Mi dia. Sono emozionato anch'io. Sono emozionato. Dopo l'inno italiano, sono emozionato anch'io. Ma signor colonnello, allora mi dia l'indirizzo, per favore. Allora, Associazione Italiana Carabinieri. Ascolti, Associazione Italiana Carabinieri. Viale Ungheria 55 CO Radio, vabbè, no, quello no. Ungheria 55, sì. Roma. Va bene, il suo riferito nome? Colonnello Antonio De Croci. Colonnello Antonio. Detto De Crux. Però. De Croci, è scritto tutta una parola? De Crocis. De Frocis, sì, De Frocis. De Cro Francis, se stia bene. Lieto di averla sentita, le manderò i miei libri, se stia bene. Ma che libri sono, scusi? Uno è una lotta, una storia di lotta alla mafia. Io sono stato per anni scortato qui a Mister Bianco. Va bene, cose possibili. E l'altro è Sindaco per passione. Due libri miei che li leggerò con avidità. Li leggerò con avidità. Ciao, signor colonnello. Senta, il mio numero ce l'ha, sì. Non lo perdo. Arrivederci. Sì, è bene. Arrivederci. Nuovo, omaggi. Sindaco. Omaggi, omaggi. Spettacolare, spettacolare. La Zanzara. Tu hai una malattia, tu fai una domanda e poi parli sopra a quello che dovrebbe dare una risposta. Non è che conduci, tu dirigi, cioè dirigi il traffico. Andiamo a Cagliari, Marco, 800 24 00 24. Quello che avete sentito prima, ragazzi, era il mitologico sindaco di Mister Bianco. Sindaco di Mister Bianco, Nino Di Guardo, e, insomma, alle prese con carabinieri un po' incazzati. Carabinieri un po' incazzati perché, insomma, ha definito un carabiniere uno sbirro, eccetera, eccetera. Uno sbirro, e non ce li vogliamo qua gli sbirri. Ma chi c'è? Ancora Mauro da Manto. Ma ragazzi, basta però con Mauro da Manto. Mauro, che cazzo vuoi ancora? Ma che cazzo voglio? Dai, su, basta, voglio? Abbiamo chiuso. Perché, abbiamo cosa, chiuso. Dimmi una cosa. Perché tu la prossima cazzata che dici sugli ebrei, ti mando a fare allora, in culo direttamente. Tu mi sottovaluti. Parla di altro. Aggiornati. Io sono sempre aggiornatissimo. Una cosa che sono in anticipo di 4 anni. Sì. Perché il complotto Berlusconi lo sapevo prima ancora che lo facessero. Il complotto Berlusconi. Ah, il complotto Berlusconi, lo sapevi prima. Sì. E chi sei? Nostradamus, chi sei? No, basta conoscere persone pesanti in Svizzera. In Svizzera c'è una clinica. Gente che frequenta. Sì, le cliniche dei malati di mente, infatti. Gente che frequenta i biglietti. Le cliniche di malati di mente si chiama. Cliniche. Ma non si può lamentare che uno così ha perso il lavoro, per forza. Ascolta, è matto. Ma chi lo prende? Stare zitto, o prendo il treno, ma al mattino vengo lì e non legno. Ma lì dove? Dove vieni? Ma non è a Milano. Non sto a Milano. Anzi, no, diciamo a Roma. Diciamo che sei a Milano, così è bene. Vengo a Roma. Vieni a Roma. Vengo a domicilio per legnato quel coglione lì. Quel nulla, lo zero. Vabbè, Mauro, abbiamo capito. Ma com'è che una persona così per bene ha perso il lavoro? Com'è possibile? Ma com'è possibile che uno così non trovi un impiego? Allora, però sono pigliato per il culo che ha perso il lavoro. No, ma non capisco perché con una testa così brillante. Dimmi, Mauro, dai, però poi chiudiamo, dai. Basta. Allora, tu sei andato. Allora, intanto tu mi sottovaluti, perché io quando entro in casa. Quando entri? Quando entro in chat, sono terrorizzato. In chat? Perché io massacro tutti. Ma chi? Ma quale chat? Dove? Quale chat? Di quale? Una chat libera, dove io sono Belvamen. E quando Belvamen? È un uomo solo, dai. Quando entra Belvamen. Ma è un uomo solo. Belvamen. Perché, sì, Belvamen, perché io sono una belva. Perché tu non mi hai mai visto arrabbiato ed è meglio che non mi vedi. Ma no, ma dai, ma che no. Paura, allora, mamma mia, brrr, che paura, brrr. Allora, sto coglione che hai a fianco, tremo, questo coglione olimpionico, tremo, brrr. Dai, dai lavoro ai coglioni. Mamma mia. Vabbè, dai, però, ma... Voglio farti una domanda. Dimmi. Tu hai visto ancora in una fabbrica dove c'è lavoro manuale, dove c'è manuale. Da faticare, sì, degli ebrei? Ma sei fissa, basta, adesso ti mando a fare il culo. Ciao, ciao Mauro, ciao. Parla di altro, mi sono rotto le scatole, basta, dai. Perché? Vabbè, ti diciamo la puttana. Sono delle secche. Vabbè, ciao Mauro, ciao. Basta, uno un po' era fissa degli ebrei nella vita, dai, su, parla, pensa ad altro, no? O no? Dai. È matto, che vuoi fare? Un malato. Dai, su, allora, con chi eravamo? Marco da Cagliari, vai, Marco. Salve. Dimmi Marco, dai, forza. Parlare con Matteo? Non ho capito, scusa Marco. È possibile parlare con Salvini? Salvini 2 ore fa era qua alla radio, Marco. Due ore fa. Ma dove? Diamogli il numero di... Sei sconnesso pure tu? Sì, 2 ore che aspetto. Vabbè, dai, forza. Che vuoi dire a Salvini? Dimmi, che glielo dico io poi. Non ti preoccupare. Sì, io spero che gli mettano proprio al bando come durante la rivoluzione di Mao. La rivoluzione. Furono messi al bando i reazionari. Sì. Mi auguro che facciano la stessa fine loro, i loro seguaci, sì, e tutta la loro banda di criminali sono peggio dell'ISIS, tra l'altro. Sono peggio dell'ISIS. Quando uno ti bombarda psicologicamente 24 ore su 24, sì, con quella pagina di merda, sì, e stabilisco di merda. Che vuol dire pagina di merda? Beh, quel suo profilo del cavolo, come uno lo vuole chiamare. Profilo di merda, profilo di una persona che fa politica, profilo di merda, vabbè, quello che dice, vabbè, d'accordo, che ti devo... No, perché quello che dice non è verità. Ma chi ha detto che è verità? Sono deliri di una persona frustrata, sì, che non sa che cavolo fare dal giorno alla notte. Vabbè, Marco, ciao. Fabrizio, Firenze, vai, Fabrizio. Dimmi. Pronto? Dimmi Fabrizio. Niente, io volevo parlare di Salvini. Parlare di Salvini anche io, perché dicevo, su quello che Salvini dice non mi trova d'accordo niente. Niente, assolutamente niente. Solo su un fatto. Che i matrimoni gay, sì, per me, quello possono fare quello che vogliono a letto, a casa sua. Beh, quello, insomma, non c'è bisogno del suo permesso, però. Appunto, sì. Ma dicevo che il fatto dei figli invece no. Io sono perfettamente d'accordo che i figli devono avere un padre e una madre. Vabbè, registriamo questo, Fabrizio. Ciao. Allora, come alcuni di voi sanno, oggi c'è stato un pronunciamento, anzi nei giorni scorsi in realtà, un pronunciamento del Tribunale di Milano sulla vicenda del scherzo che abbiamo fatto tempo fa, ormai febbraio 2014, a Barca col finto Mendola. Non ci pronunciamo per questo, perché ci sono procedimenti in corso, sapete come la penso, l'ho detto mille volte, non c'è bisogno che lo ripeto in questa sede. Noi rispondiamo in questo modo con una puntata speciale, qualche minuto, di Zanzarology, dedicantologia della Zanzara, dedicata a uno scherzo che abbiamo fatto al signor Odifreddi. Signor Odifreddi. Per il quale siamo stati assolti con formula piena, nel senso che poi manco si è arrivati al processo. Hanno detto: guardate, qui il processo proprio non si può fare. Eppure il signor nessun rinvio a giudizio. Odifreddi ci aveva denunciato per diffamazione, violazione alla privacy, di persone, eccetera eccetera, però lo stesso tribunale di Milano ha detto che insomma si possono fare tranquillamente queste cose. Zanzarology, antologia della zanzara. Pronto? Professor Pier Giorgio Odifreddi? Sì. Sono Francesco, buonasera. Oh, ma non mi dica, veramente? Francesco, il Santo Padre. Il Santo Padre, mi alzo in piedi perché almeno questo glielo voglio dare come rispetto. Mi spero. Fa molto piacere sentirla. Mi dica, sono molto contento di sentirla. Io ho letto le cose che lei ha scritto sull'Olocausto. Io la fermo subito, perché in realtà è un completo fraintendimento, e infatti oggi ho chiarito sul mio blog, io non ho assolutamente nessuna intenzione di negare né l'Olocausto né le camere a gas eccetera, invece no, ho detto semplicemente qualche cosa sulla verità, dicevo che la verità storica è diversa dalla verità matematica, ma purtroppo queste cose sul blog sono troppo sofisticate per poterle capire, quindi è stato un errore voler parlare di queste cose, no, in un ambiente che non è adatto. Mi piacerebbe in ogni caso incontrarla privatamente, le andrebbe di parlare con me di questa cosa? Molto volentieri. Vuole che dopo la messa del 25 mi fermi un pochettino? E guardi, naturalmente il suo libretto di appuntamenti sarà molto... Potrebbe essere una buona occasione. La chiamerà però la segreteria di Stato? Sì, volentieri. Lei sa che il suo predecessore, Benedetto XVI, mi ha scritto una lunga lettera, non so se lei l'ha vista. Non ho letto questa sua... Ah, questa sua allora, lettera? Perché, sì, perché io avevo scritto qualche anno fa, due anni fa, un libro che si chiama Caro Papa, ti scrivo, no? E l'avevo indirizzato a Benedetto XVI ed è un lungo commento sulla introduzione al cristianesimo, no? Di Benedetto. Mi farebbe molto piacere leggere questo. Io lo porto, anzi, se lei poi sa, l'unico che può fare una prefazione al libro con un papa è un altro papa, naturalmente. Zanzarology, ragazzi, un mito, eh. Abdul, Bologna, vai, vai. Pronto? Dimmi, Abdul, vai. Sì, ciao, ciao Cruciani. Allora, io forse faccio parte di quelli che hanno bastardato. Anche gli extracomunitari ascoltano la Zanzara, Abdul. Io l'ascolto fino a Dakar, quando sono a Dakar ascolto sempre la Zanzara. Senti un po', io faccio Senegal. Parte di quelli che hanno bastardato la razza italiana, no, la razza bianca, diciamo, non so, ha detto così, no? Bastardare la razza, sì, basta. Poi si è spiegato, sì, ma quello, perché io sono senegalese, ma ho sposato una moglie italiana, ho un figlio sì. Caffè latte, cioè bellissimo, un figlio bellissimo. Allora? Quindi, però io volevo parlare di Salvini, ma volevo chiedervi una cosa, ma Salvini sì. Non è che lo pago 20.000 euro per, non lo so, cioè, è parlamentare europeo e ecco. I parlamentari europei di solito in Italia non è che lavorano moltissimo, ci sono alcuni che lavorano, altri infatti. Che lavorano meno. Lui dice di essere abbastanza presente, ma che è abbastanza presente, diciamo, cioè, il Parlamento europeo gli serve per prendere uno stipendio, diciamo, questa è la realtà. Esatto, infatti per quello che dice racconto qualsiasi stronzate per prendere per continuare a prendere questo stipendio, perché tanto lui sa che quello che dice sa benissimo che non lo potrà mai realizzare. Vabbè, ma quello è un altro discorso. No, non è, cioè, nel senso che lui comunque, secondo me, la sua posizione è comoda, perché sapendo che non sarà mai il primo ministro di questo paese, quello sicuro, può dire, allora può dire qualsiasi state che volete sentire, perché tanto lui non avrà mai la responsabilità di gestire questi crisi. Vabbè, ma lei non è d'accordo con quello che sostiene Salvini sull'immigrazione, sui rom, ma, eccetera, eccetera, e dice anche... Sì, ma... capito, ma dice delle cose che non sostanno, cioè che non potrà, guarda, mai allora, realizzare in Italia. Scusa, la distruzione dei barconi, chi è che mi diceva oggi che negli ultimi tempi sono stati distrutti non so quanti 400 barconi negli ultimi mesi, eccetera. Dunque la distruzione dei barconi sono stati nel Mediterraneo. Matto. Come no? Magari sì. Quello è possibile. Ragazzi, la distruzione dei barconi vuoti si può fare, la prevenzione sì, ma per ma non tu fare. Tu hai letto l'intervista bellissima che Aldo Cazzullo ieri ha fatto al Corriere al Capo di Stato Maggiore? No, non l'hai. Lascia perdere. Ma sì, ma chi se ne frega del capo, no, di Stato Maggiore? No, ma che c'entra? Ma certo, digli chi se ne frega. Che cosa ha detto il capo ieri di Stato Maggiore? Ieri sul Corriere della Sera il signor Aldo Cazzullo. Sì, vabbè, ho capito. Ha fatto una lunga paginata, un'intervista, va bene, d'accordo, interessante, forza, dai, al capo detto, di forza. Stato Maggiore, sì. Il quale dice che se non c'è la NATO non fai nessun blocco navale di nessun tipo, perché non lo puoi fare. Quindi non dite sciocchezze. Tu, la Ruspa, Salvini e Calderoni. Ma che c'entro io? Ma allora, non mica detto che non si può fare però il blocco navale. Non si può fare, ad oggi non si può fare. No, con la NATO sì però. Sì, ma fino a quando non c'è una ma ho capito, ma si può fare o non si può fare questo blocco fino navale? Ad oggi no. Sì, ma che vuol dire? Stando ma... oggi lui dice la priorità è salvare le vite umane. Vabbè. Il capo di Stato Maggiore della Difesa. Sì, vabbè. Allora, la straordinaria Australia decide... No, beh, amico mio, stupendo, stupendo. Il primo ministro australiano, ma stai zitto un attimo, il primo ministro australiano cosa ha fatto? Ha praticamente ammesso di avere pagato gli scafisti. Cioè, alcuni scafisti sono arrivati con un barcone dall'Indonesia, si sono avvicinati alle coste australiane, è arrivata la marina militare australiana, ha detto, amici miei, vi diamo 5.000 dollari australiani cada uno, erano sei scafisti, sei capi di questa banda di criminali, se voi prendete il barcone e tornate indietro. Indietro. Beh, numero uno, tutto si fa pur di respingere i barconi, anche pagare gli scafisti. Non sono del tutto contrario, è chiaro che poi si possono innescare meccanismi strani, roba, ma non criminali. Sono del tutto contrario. Criminali. O li arresti, da stato o li paghi. Criminale. O li paghi, ma quale da stato? Da stato criminale. L'Australia è uno stato criminale. Assolutamente, adesso. Quando fa queste cose sicuro. Dai, su, dai. Sicuro. Mariella, non ci metterò Brescia. Piede. Mariella, Brescia. Salve, chi se ne frega, se ne faranno ragione. Sì, buonasera. A lei anche. Dai, dimmi, Mariella, forza. Ascolti, io sono rimasta esterrefatta da quella registrazione che avete fatto a questo sindaco di Mister Bianco. Perché? Perché io mi chiedo come il meridione può migliorare con questi personaggi che loro eleggono. Eh beh, ho capito, amica mia, adesso l'associazione era l'associazione, ho capito, ma era l'Associazione Nazionale Carabinieri che chiamava, e questo si è messo sull'attente a un certo punto. Ferma lì, ferma. Ma è un pagliaccio, questo qui. Vabbè, è un pagliaccio, è uno che parla in un certo modo e si è sentito un po' a un certo punto investito dai carabinieri che lo chiamavano. Ferma lì. Questa informazione, Cruciani, questa informazione. Invesco per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Ehi, voi due malvissuti, state al vostro posto. I know you've been out running. When you've done all your running, run to me. Bravissimi tutti quanti, eccetera, eccetera. Però siete due conduttori da Festival dell'Ovvietà. Allora ragazzi, un grande ospite questa sera alle 20.35. L'ho incontrato tempo fa in un ristorante. Vabbè, non si può rivelare tutto, non si può sempre rivelare tutto. Stai zitto, stai zitto. Chiudi la bocca. Enrico Montesano con noi. Enrico, come stai? Come stai? Buonasera, eccola là. Come ecco, andiamo? Come andiamo? Diciamo bene. Quando è che fai 70 anni innanzitutto? Ma come? Quando è che fai 70? Ma che ne so, no, non li faccio. Come non li fai? Non no, li salta. Il mio coefficiente è 20 moltiplicato 3,5. Cioè, quindi, spiegami innanzitutto, 20 moltiplicato 3,5, cioè? Hai capito? No, non ho capito la mazza, spiegami. 20 per 3 fa? 20 moltiplicato 3,5, vabbè, fatevi i conti ragazzi, ma c'avete un pallottoliere, 20, una calcolatrice, no? 20 per 3,5 il tuo coefficiente, poi spiegami che vuol dire però. Vabbè, che cioè io ho sempre questi 20 anni che si ripetono. Ah, ho capito, capisci? In questo modo. No, volevo dire che sono contento, ma mi consenti un breve pensiero. Come no, tutto quello che per vorrei. Laura Antonelli e Remo Renotti. Assolutamente. Oggi è una giornata drammatica, sono morti due praticamente. Io con Laura Antonelli feci un breve episodio in un film che era molto divertente. E con Remo Remotti invece lui faceva Thor Valsen in Rugantino. Sì, sì. È sempre stata una persona molto spiritosa. Senti, ma secondo te perché Laura è finita in questo modo negli ultimi anni, eccetera? Non so se ti... quindi questo è un paese curioso. Io oggi adesso sono fuori Roma e mi hanno chiamato per andare di qua e di là e non potevo muovermi. Sì. Poi quando campi non te se fila nessuno. Come muori? Ah, tu dici come muori, eccolo là che... Eccola là che sì, ma allora, vedrai quando morirò io, i monumenti. Vabbè, ma è difficile. Mentirono le strade, capito? Ma lì qual è stato il problema suo personale oppure un mondo che l'ha rifiutata a un certo punto? Ma lei forse aveva un problema suo, sì, sì. Però anche il cinismo di questo mondo del cinema. Ma dai, perché è rimasta sola, Enrico? Scusami, perché adesso poi dopo parliamo di quello. Ma perché sai, è rimasta così sola? Non lo so, non riesco a capire. Ma vede che era quello, il cinismo del mondo dell'industria dello spettacolo. Gli affari nello spettacolo ti schiacciano, dai, come un card. La famosa ruspa di Salvini. Bravo. Beh, che c'entra la ruspa di Salvini? Scusa. No, così no. Siccome l'avete avuto ospite poco prima, sì, allora. Sì. Ti piace Salvini o no? Beh, Salvini ha alcune cose giuste, anche se ha delle pregiudiziali, come diceva il mio amico Cismetto nella sua cosa online che scrive, sì. Salvini ha queste vicinanze con la Le Pen, queste amicizie con Putin, insomma sono cose un po'... Vabbè, però insomma molte cose... Ma che sono... cosa, su che cos'è che sei d'accordo, Rico? Non ho capito con... No, cioè, voglio dire, no, come figura di... Cioè anche tu i campi rom li spianeresti con la ruspa senza le persone dentro? Cioè, tu hai una vecchia controversia con i campi rom, no? Con i fumi, no? Ma no, con le persone dentro, no. Ma no, con le persone dentro, quello Marco Salvini lo dice. Ma chi ha detto che le persone dentro? No, nessuno, per carità. No, per carità. Per carità. Però no, anche tu. Una battuta in uno spettacolo che facevo nel 2005, sì. Dicevo, sei nomade, e invece stanno fissi lì stanziali, sei nomade, nomada. Se uno non nomada, non è più nomade. Ah, per cui te l'hanno ripresa questa battuta, secondo me, perché l'ho sentita di recente, secondo me te l'hanno rubata. Ma qua è mica solo questa, sai quanto mi rubano? Rubano un sacco, sì. Perché sai, in Italia vengono a vedere gli spettacoli teatrali, scrivono, copiano e non citano mai la fonte. Beh, io nel 2005, questa è depositata alla SIAE. Dimmi. Allora, che hai fatto nel 2005? Succede spesso. No, per carità, no, io per carità. Ah, no. Nel 2005 hai fatto questa cosa qua su Nova. Sì, era uno spettacolo che si chiamava È permesso. È la Meloni che ha preso questa cosa qua, Nomadare. Ha detto Nomadare, sì, Nomadare. Ma Giorgia Meloni mi fa piacere, una ragazza intelligente, simpatica. Era uno spettacolo che abbiamo fatto al Teatro Sistina per 9 settimane. Sì. Ma adesso che stai facendo per i tuoi 70 anni? Dove li festeggi? In teatro? Dove li festeggi questi 70 anni? Ma io già l'ho fatti. Quando hai fatti? Non mi ricordo. Sì, è già il 7 giugno. Ah, giugno, beh. Io non ho fatto niente, sono stato tranquillo a casa. Sei stato tranquillo a casa? Ho sentito la musica, ho letto, ho scritto. Non hai fatto niente? Ho pensato. Hai pensato? Che hai pensato? Che dice, ma dice, che stai a fare? Sto a pensare. Dice, allora non stai a fare niente. No, Invece pensare è una cosa importante. Ma hai riunito tutti i figli o no? Sì, sì, sì, ma quelli che non potevano raggiungermi mi hanno chiamato. Ma quanti so, scusa? Sei più uno, cioè sei più uno, che vuol dire? Come sei più uno? Sei più uno perché una è la figlia di mia moglie. Tu hai fatto hai fatto 6 figli tu. Io ce n'ho 6, sì. Sei figli da 3 mogli, da 3 persone da 3 diverse. Mogli diverse. Ma come io fai? Ho cominciato, purtroppo ho cominciato presto, a 19 anni, e come diceva John Wayne, cioè, ma come lei si è separata, aveva 3 figlie, e lui al giudice disse: vostro onore, non perdo un colpo. Sì, però scusami, Enrico, ma come, diavolo hai fatto? Come diavolo fai a mantenere tutta sta gente? Infatti è stata una gran fatica, perché poi oltre ai 6 figli dico qualcosa, ho avuto l'ex mogli e lo stato italiano, figli. E quindi io devo stare attenta, se no vado a finire sotto un ponte. Allora dovresti essere a favore del divorzio breve tu, o no? Io favorevolissimo. Appunto, dico quello che dico io. Beh, però bella questa famiglia. Bello, bravo. Quasi, quasi. Cos'è come quell'ultimo romanzo di Houellebecq? Qual è? Houellebecq, sì. Sottomesso. Houellebecq, vuoi chiamare. Sottomissione, che c'è quel professore che per non perdere il lavoro poi all'università si convertono tutti, diventano musulmani, perché ci conviene. Perché, dici? E possiamo avere 3 mogli senza problemi. Ah, senza separazioni, cose, casini, vale legali. Poco. È una grande cosa della religione. Dici, l'unica cosa positiva dell'arrivo, diciamo, della, no? Te pare. Potrebbe essere questa, sì, ma effettivamente sì. Cioè, c'è la moglie è quella giusta che fa la governante, poi c'è quell'altra, poi c'è quella più giovane. Stai a posto. Senza divorzi, senza avvocati, pensa che bello. Bah, stupendo. L'unica cosa buona dell'ISIS, sai che t'attaccheranno le femministe per questa cosa che dici, no? Ma non me, io femministe, riporto eccetera. Scrittore che è stato pubblicato e che è stato letto. Però cioè, ti piace questa soluzione, la soluzione islamista per la famiglia? Cioè alla fine si evitano casini, divorzi, separazioni, soldi per l'uomo. Ma nel romanzo lui fa un'ipotesi affascinante, questa Francia che si islamizza, no? Intanto noi abbiamo i petrodollari e possiamo funzionare le nostre scuole pubbliche, dove però si sta sottostà a certe regole. Poi nelle private fate quello che volete, ma non vi diamo una lira. Senti una cosa, Enrico, i 70 anni sono passati, non te ne frega niente, mi sembra di capire. Ma Marino, io sono sicuro che Enrico Montesano farebbe meglio di Marino. Tu mi vuoi sindaco col giubbotto antiproiettile? Perché dici? Perché? No, perché sai che c'è un sindaco di 5 Stelle che mi hanno detto che adesso, siccome sta facendo delle cose molto scomode, gira con tu dici che se io fossi sindaco di Roma dovrei avere il giubbotto antiproiettile, perché tu dici... Io farei delle cose che mi metterebbero a rischio la mia vita. Ma tu lo faresti? Ma ci stai pensando a candidarti? Guarda, se i romani mi acclamano, come diceva Pedrolini, era popolo, Nerone. No, io non ci penso nemmeno, per carità. Vabbè, però tu dici ci vuole poco a fare meglio, no? Io dico sempre: arridatemi Nathan, arridatemi Petrotelli. Grande sindaco. Sono passati, Nathan, sono passati grande, tanti bravo, anni. Anche un pezzettino di Rutelli, il primo all'inizio. Però tu dici: è molto facile fare meglio di Marino, dici? Ma sì, dai. Lo vedi, ecco Marino. E sorciga c'ha via e ce me li mette alla gogna, tornate nella fogna. Te faccio sentire la frase di Marino, la frase di Marino sulla fogna, sulla destra, che è fortissima. Parenzo dice che ha fatto bene, pensa te, aspetta. Sì, una battuta. Aspetta. Ed è quello che veramente io ho visto arrivando in Campidoglio, e dobbiamo dirlo, dopo le rovine lasciate da quella destra che oggi si erge a scudo morale di questa società. Ma non hanno vergogna? Perché non tornano nelle fogne da dove sono venuti? È là che devono andare! Allora, il giudizio di Enrico Montesano anche dal punto di vista teatrale, perché questo sì, è un pezzo di teatro, diciamo la verità. Pezzo questo, guarda, questo mi sembra veramente Petrolini. Ah, ti sembra un pezzo? Ma dico, tu lo sai che lui si è fatto crescere la barba per non farsi riconoscere, ma i romani lo riconoscono lo stesso, eh? Poi voleva i sanpietrini, ma lasciaceli che ci servono i sanpietrini. Ma comunque, scusatemi, dimmi, amici, ragazzi, un sindaco di Roma che dice il Campidoglio. Che è Campidoglio? Campidoglio, l'ha pronunciato male, dici. Noi romani ce l'avevamo la gli. Ma è de Genova questo, dai. Ma su, che ne sa, ma che, per carità, la destra ha fatto pena, ma non è che questo governo, questa amministrazione di sinistra stia facendo meglio. Quindi noi, fra destra, né destra né sinistra. E allora chi vorresti sindaco di Roma, tu, Enrico Montesano? Io un ragazzo dei 5 Stelle proverei. Ah, Di Battista proveresti, addirittura. Ti piacerebbe? O la Meloni? No, la Meloni ha detto di no. Ma guarda, no, la Meloni mi piace lei, però, mi piace, perché è una ragazza però forte, tu dici, intelligente. Però tu dici, proviamo uno dei 5 Stelle. Proviamo però uno. La Meloni è stata abbastanza vicino, diciamo, a un certo gruppo. Beh, ad Alemanno, come no, certo. Dal punto di vista amministrativo, posso provare qualcuno che non ha mai governato? Bravo, bravo, sono d'accordo con te. Io pure voterei in questo momento, io voterei a Roma 5 Stelle, uno dei 5 Stelle. Io guarda, perfino Di Battista voterei. Io voterei che Marino non ha fatto, dico, non è stato coinvolto in alcuna inchiesta. Ma che c'entra, anzi, non è stato coinvolto? Dai, ma come si fa a dire quella cosa comunale sulla destra? Destra e sinistra a Roma sono sei mai scandalizzato di quando la Lega usa il linguaggio turbe? Io voglio capire se Adriano Montesano ha colpito questa cosa della fogna di Marino, sì o no? No, mi pare. Sì. Ma no, non l'ha detto per le paté le public della festa dell'Unità, sì. E là uno lì si lascia andare, lì c'ha avuto un attimo, ma certo. ha perso gli è partita la frizione, è enfasi mussoliniana, beh, oddio, mussoliniana, sì, enfasi, diciamo, da anni 70, da comizio anni 70, contro, sì, i fascisti, da comizio anni 70, però la frase si diceva fascisti carogno, appunto, dico, non è bellissima come frase, no, non è bella, però insomma, Ma sì, vabbè, non comunque credo che debba tornare nelle fogne nessuno ormai, ecco, no, questo dico. Che ci inventiamo una canzoncina su Marino? Com'era quella che hai fatto prima, che mi hai improvvisato? Ma quella che ho improvvisato, Marino, vedi, ma adesso quella, ecco, Marino, te lo metti alla gogna, tornata, era per fare rima con gogna, oddio, sì, vabbè, scivoliamo su rime pericolose, sì, sì, assolutamente. Vabbè, Enrico, dove stai a Sistina, che fai? No, non fai niente. Io a dicembre vabbè, a dicembre è presto. Senti, ma lo sai che è diventato vegetariano? Chi? Io è diventato vegetariano, ma non è che mi diventi pure vegano, no? Io vado adesso al Vegan Fest. No, dai, Enrico, no, ma perché? Ma no, al Vegan Fest, dai, ma tu. Ma se, perché io non mangio più la carne. Ma davvero sei uno di quelli che pensa che chi mangia la carne è un assassino, che ammazza? No, io però non amo. Ma non da trovo quando giusta queste catombe di animali. Ma veramente stai a dire? Ma veramente dici? Sì, trovo giusto. Beh, guarda, io da bambino, quando mi dicevano andiamo a pesca, io non ci volevo andare, perché a me vedere quel pesce infilzato con l'amo mi fa pena. E adesso sei arrivato a pensare. Ma perché? E dunque adesso sei passato dopo il pesce. No, la no, ma io non sono un fanatico. Quando si fa la frittata, a me un pezzo me ne spetta. Se Teresa fa un po' di pesce, io lo devo mangiare un pochettino, perché in famiglia si fa questo. Però, per esempio, sta mania di mangiare la carne tutti i giorni è sbagliata, fa male. Però secondo te è in corso un olocausto animale? Cioè, stanno sterminando. Guarda, io per motivi non solo etici, ma anche pratici. Sai quanta terra bisogna coltivare a foraggio? Lo so. E allora, e poi perché dobbiamo ammazzarli così in serie? Si potrebbe mangiare meno carne, sarebbe anche meglio alla salute. In Cina hanno fatto una fiera di cani. Una fiera di cani, sì, una fiera Tu cani. Sai, Enrico, che Cruciani ha mangiato anche il cane. Io è ho mangiato anche il cane. Bestia. Vedi, lui è terribile, prova tutto. Ecco perché ecco perché c'ha rabbia. No, ragazzi, dai, sono rabbiosi sti cani, no? No, che rabbiosi. No, Cruciani, per i cani capisco la mobilitazione, però per i poveri abbacchietti. Infatti, hai ragione. Nessuno dice una parola. Io me lo mangio l'abbacchio, però. Hai capito? Quando è Pasqua, dai, ammazza l'abbacchio. Ma voglio, io mangio. Ma tu lo sai che il più grande campione... Di chi? L'ultimo campione di colore americano, che adesso mi sfugge il nome, mi viene... Il campione di che? È di atletica. Di atletica, era vegetariano. E vabbè, ma anche dicevano anche Hitler, ma non è vero, era vegetariano. No, Hitler non credo. Te lo segnalo. Hitler si mangiava i cani, secondo me. Ma vorresti fare un film con Razzi? Io con Razzi, posso fare un duetto. Dai. La canzone. Vabbè, ciao Enrico, a presto. Ciao, buona un serata. Abbraccio, ciao caro, ciao. Ciao, ciao. Via, chiudiamo tutto. Ragazzi, non andiamo, aspetta, fermo. Federico Firenze, vai, Federico Firenze, dai. Chiudi la baracca, dai. Sì, ciao a tutti. Dimmi. Volevo lanciare una provocazione a Parenzo. Sì. Che gli ascoltatori continuano a definire comunista, ma in realtà al massimo può rappresentare il medio progressismo. Vabbè, del allora? Direttore di Fantozzi. Ma niente, la provocazione era questa, perché... Vorrei che mi spiegasse perché il concetto di popolo eletto dovrebbe farci meno cagare del concetto di razza ariana. Ma questo è stupido. Cioè, perché il concetto di popolo eletto dovrebbe farci... Ma cosa c'entra? Si riferisce agli ebrei, evidentemente. Sì, ma è ovvio, capito? Ma è un idiota, però. Cioè, vabbè, ragazzi, una adesso, cosa non che non esiste. Adesso non c'è stupida. Tempo. Silvano stupida. Dalla provincia di Lucca, vai. Silvano, vai. Stupida. Silvano? Ciao. Forza, vai. Una domanda molto veloce, ma... Finché ci saranno le guerre, ci saranno gente che scappa dalle guerre. Sì. E di conseguenza, quanti se ne dovrà prendere in futuro di gente che scappa dalle guerre? Sono d'accordo con te, Silvano. Sono d'accordo con te. Questa è la teoria che vogliono loro, che bisogna accogliere tutti. Profughi, gente che scappa dalle guerre, gente che ha bisogno di denaro, gente che ha bisogno di mangiare. Tutti accolti. In virtù del fatto, come dire, in nome dell'accoglienza, dell'umanitarismo. Non è così, non si fa così. Viva l'Australia! A domani, 18:30. Giuseppe Cruciani, della Zanzara, lui che è il genio del male, che ha capito, insieme a Sancho Panza Parenzo, non so se lo conoscete, lo scudiero di Cruciani, ha capito, se io faccio parlare la gente, la miseria umana, se la faccio parlare, diventa un programma straordinario. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sei una cosa vergognosa, sei un giornalista del cazzo, del caculo! Radio 24, la passione si sente.